Cavalieri della tavola rotonda, assaggiamo e vediamo se il vino è buono. Gabriel camminava velocemente sotto la pioggia, sulla banchina del porto di Marsiglia. Stava andando a salutare la via, si erano dati appuntamento in una caffetteria. La trovò al tavolo accanto alla finestra che affacciava sulla strada. Come la vide, Gabriel scosse la testa divertito. La versione nouveau della grande madre? Chiese ironico Gabriel sedendosi al tavolo. In effetti la via aveva assunto un aspetto diametralmente opposto al suo. Di lei c'erano soltanto i capelli biondi e gli occhi nocciola. Il resto era bizzarro, fuori dal tempo in cui si trovavano. Gabriella guardava con la curiosità con cui si guarda un pellicano che fa la fila all'ufficio postale. La via si era vestita con le sembianze di una corpulenta donna di mezza età. Abbigliata con un abito ricco di ricami in rilievo, una scollatura generosissima arricchita da pizzi e perline, un paio di guanti di merletto e, come se non bastasse, un sontuoso cappello con grosse rose sulla falda, da cui sbucavano lunghi boccoli biondi. Una pacchianeria senza confini. Ci sono novità, disse Gabriel. Ieri sera lo spettacolo di Marcella ha riunito tantissima gente, continuò la via, proprio qui davanti, malgrado la pioggia, e molti cantavano insieme ad André. Sta per sposare Sylvie, e gli ha anche chiesto di lavorare con lei, intervenne Gabriel facendo apparire un origami, un elefantino. L'ha fatto André? Chiese la via indicando l'elefantino di carta. Sì, è la sua lettera, rispose Gabriel aprendo l'origami. Lesse la lettera ad alta voce. Mi capita sempre più spesso di essere avvicinato da persone decisamente non comuni. Una signora si è presentata dicendo di appartenere al popolo delle stelle in missione segreta sulla Terra, e che poteva uscire allo scoperto con me perché io sapevo di cosa stesse parlando. Mi ha chiesto di mettere in scena uno spettacolo dedicato alle donne. Devo scrivere delle poesie e cantarle mentre Marcella deve coreografare una danza contro la violenza sulle donne. Io ho risposto che lo farò volentieri, anche Marcella ne è entusiasta. La signora ripeteva insistentemente che portare sulle strade lo spettacolo che ci suggeriva è molto molto importante, perché sarà la donna a sconfiggere il male che domina e tiene in ostaggio la terra e noi come uomini abbiamo il dovere di agevolare il riscatto delle donne. Credo abbia ragione, ho solo paura di non riuscire a mantenere l'impegno con Marcel. Lui preferisce che io canti in scena mentre io pensavo di registrare la voce in modo che lui possa rappresentare la sua coreografia anche se non avessi modo di partecipare. La mia vita sta subendo degli scossoni, ormai ho deciso, presto sposerò Sylvie e inizieremo anche a lavorare insieme. Sta aprendo un secondo studio di interior e garden design, io curerò la progettazione dei giardini, non avrò più il tempo per partecipare ai suoi spettacoli, ma cantare sì, voglio continuare, è una cosa che faccio da quando sono nato e mi piace aiutare Marcel. Mi sembra di vivere due vite parallele completamente slegate l'una dall'altra. C'è quella nazista di mia nonna che vive fuori dal mondo e sa solo offendere, i miei genitori che sicuramente ho deluso, ci sono i sogni che mi fanno vedere altri mondi, c'è Marcel che anche lui si barcamena tra sogni e coincidenze. C'è Sylvie che vuole da me una vita regolare. È sempre stata molto paziente con me, ma si è stancata di fare la perenne fidanzata, vuole creare qualcosa di più concreto. La sposo volentieri, ci conosciamo da quando eravamo bambini, e sarà poco più di una firma su un documento che tranquillizzerà la mia famiglia, senza sentirci in gabbia. Per fortuna c'è Alan che con il suo cinismo sdrammatizza tutto. La nostra principessa Alice si era sposata per simpatia, Andrea si sposa per noia, sorrise la via. Anche Gabriel sorrise e volse lo sguardo verso fuori, per guardare la pioggia. La via allungò le braccia sul tavolo, gli prese le mani e le strinse nelle sue. Come stai? Gli chiese. Sto bene, rispose serio. Preoccupato? Sempre, sorrise lui. Cos'hai in mente per André? Gli sto ricordando perché è qui. Entrò un venditore di fiori, si diresse verso Gabriel e la via. Un omaggio per la signora? Disse il venditore mostrando a Gabriel il cesto pieno di fiori. Gabriel prese dal cesto un mazzolino di margherite e le offrì alla via. La via prese un paio di margherite dal mazzetto e le mise nel taschino della giacca di Gabriele, sorridendo gli sistemò anche la cravatta. Manac e le Rochel bussarono al vetro della finestra per attirare la loro attenzione. Vieni anche tu? Chiese Gabriele alla via. Non rimango qua a prendere appunti, rispose lei mostrando il taccuino. Ricamato pure quello, rise Gabriele. Sì, oggi va così, rispose allegra la via. Manac, Rochel e Gabriel si incamminarono verso un bistrò non lontano. Come arrivarono trovarono André, Alan e Marcella attorniati da un bel po' di gente. Cantavano in coro Cavaliers della Table Ronde, una canzone popolare che André cantava da bambino. Manackel, Rock e le Gabriel si sedettero ad un tavolo appartato, da cui era comunque facile osservarli. Altici i nostri amici, disse divertito Manackel. Alan è proprio partito, rispose Rockel imitando la gestualità di Alan. Gabriel teneva lo sguardo fisso su André, non lo mollava un secondo. Finché André casualmente non incrociò lo sguardo di Gabriel. Gli venne un dubbio perché aveva la sensazione di averlo già visto. Ma dove? Prese la chitarra e ricominciò a cantare. Improvvisò delle ballate che raccontavano storie fantastiche di città scomparse, di principi e principesse che viaggiano nel tempo e nello spazio, di antichi sovrani che sarebbero tornati. Finito il concertino, il capannello di fans si sciolse e i tre amici iniziarono a chiacchierare. «Allora mi fai da testimone?» chiese Andrea Marcel. «Sì», rispose entusiasta Marcel. «Ma almeno sei innamorato?» sbuffò sarcastico Alan. «Ti batte il corazon quando vedi Silvia?» «Le voglio bene se», rispose André. «Che entusiasmo», rise Alan. «André», sorrise ironico Marcel, «le voglio bene un po' pochino». «Le voglio bene», rispose André noiosamente, «mi capisce, non mi assilla, c'è molta complicità, sono sicuro che mi piacerà occuparmi dei giardini». «André», ridacchiò Marcel dandogli una pacca sulla spalla, «io il testimone lo farò, ma questo non è amore, sembra che parli di tua sorella». «Ma io non mi innamoro di nessuno», sorrise André alzando le spalle. «Amore. Amore», rise Alan, «l'amore non esiste, è solo una questione di ormoni». Manackel scoppiò a ridere. «Andiamo bene», sospirò, «Marcel, davvero pensi questo?» «Mica sono romantico come te», ribadì Alan, «l'amore è una convenzione sociale, la fedeltà è una follia. Ancora non ho capito chi ha deciso che si può stare solo con una persona alla volta. La famiglia è una struttura ipocrita, tutta facciata, balle su balle, convenzioni sociali per soffocare la propria natura, assicurare la progenie, assicurare braccianti, operai, schiavi, su cui lucrare e arricchirsi. Anche no, io a questo gioco non ci sto. Io non metto al mondo altri infelici, in un mondo di infelici, un mondo dominato dalla sofferenza, dalla violenza, dalla sopraffazione, con me questo gioco non va avanti». «Stai facendo un comizio», rise André. «Ma così fermi la vita», disse Marcel. «Sì», rispose fiero Alan. «Hai il cuore di tungsteno», esclamò Marcel. La conversazione venne interrotta da un frastuono inaspettato. Dal retrobottega arrivarono le urla e pesanti scambi di offese tra il titolare e una delle cameriere, che fino a pochi istanti prima era stata simpatica e sorridente. «Che succede?» si chiese Marcel. Improvvisamente nella sala irruppe la cameriera con in mano un cesto colmo di tovaglie e tovaglioli piazzandosi al centro del bistro. «Vuoi fare teatro?» le strillò il titolare. «Guarda bene che ne faccio dei tuoi stracci», strillò lei. «Cosa credi di dimostrare?» strillò lui. «Sono una cameriera io, non sono la tua sguattera», strillò lei lanciando per terra tutto il contenuto del cesto. «Falli stirare a tua moglie», gridava calciando le tovaglie e i tovaglioli sul pavimento, «se ancora ti dà retta», concluse lanciandogli contro la cesta. Fu talmente veloce e talmente violenta che lo prese in pieno. Alana si alzò in piedi e batté le mani fragorosamente. «Brava», esclamò fortissimo, «brava. Fatti valere». Poi si rivolse a tutti gli altri presenti. «Che fate voi, guardate e basta? Fatevi sentire pecoroni». Alan fu trascinante. Tutti si alzarono in piedi a battere le mani, anche Manackel, Rocky e Gabriel.